Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. 20 milioni, questo è il numero degli utenti, delle persone che si avvalgono dell'e-commerce in Italia, 12 milioni i pacchi che vengono consegnati ogni mese. Naturalmente l'Italia è uno dei tanti paesi che è entrato in questa dinamica in cui l'e-commerce sta cambiando il modo di distribuire, non si va più a comprare al supermercato, è il supermercato che ti spedisce la spesa a casa, e questo naturalmente ha delle ricadute in termini logistica e anche quindi di vita nelle città per la distribuzione di queste merci tutt'altro che banali. Allora andiamo dal nostro grande esperto di logistica e di trasporti, Andrea Ferro, che è qui davanti a me. Ciao Andrea. Ciao, buonasera agli ascoltatori. Al quale chiedo di raccontarci un po' come si stanno muovendo quindi gli operatori della logistica per affrontare questo tema. È un problema che sono contenti di avere, naturalmente. Beh, certo, però anche un problema che pone un grande impegno, perché innanzitutto bisogna rendere un servizio sempre più capillare sul territorio e anche sempre più preciso per quanto riguarda la tempistica, perché questa è un'altra questione estremamente delicata. Cresce l'e-commerce, ma cresce anche la pretesa dei consumatori di avere quanto prima il prodotto, e in un territorio particolare come quello italiano, pensiamo alle città storiche. Ma e anche tutti i tanti paesini che si trovano fuori dalle città. Certo, no? Chiaramente questo comporta un grande impegno, ma l'attenzione particolare è rivolta soprattutto ai centri storici, e infatti in questa direzione si stanno muovendo le associazioni di categoria, in particolare Fedit, che è l'associazione che raduna i Corrieri Espresso. Ci sono già patti, diciamo così, con le amministrazioni locali, in particolare in alcune città del centro-nord, in base ai quali i corrieri possono avere più spazio, più tempo, letteralmente anche più spazio nelle città, nel senso che possono rimanere anche fermi un po' di più nelle piazze e nelle vie dei centri storici, in cambio dell'uso di mezzi, diciamo così, ecologicamente virtuosi. Certo. E questo indubbiamente è uno degli elementi sui quali molti operatori stanno puntando. Ma chiaramente non si può pretendere a lungo andare di avere tutto immediatamente recapitato a domicilio. A casa. E qua si aprono delle strategie, diciamo, alternative, per così dire. No? Ce ne sono almeno un paio abbastanza interessanti, una più ovvia, l'altra che mi ha lasciato anche un po' sconcertato, Andrea. Allora, alcune vengono già praticate, pensiamo ai punti di distribuzione che sono alcuni negozi convenzionati, quindi sai che a una certa ora, quantomeno un certo giorno, arriva quello che è ordinato e vai direttamente in questo negozio di quartiere a ritirare, quindi non hai il problema di farti trovare in casa oppure di rincorrere poi il corriere per riottenere il pacco. Poi c'è una soluzione, diciamo così, un po' più elaborata, ma per modo di dire si tratta di un ritorno al passato. Ricordi le cassette postali? Certo. Ora, che bisogna chiamare tutto in un'altra maniera, si chiamano locker. Strano che non ci abbiano messo uno smart davanti, perché di solito fanno così. Per il momento solo locker, ma non escludo che è questione di giorni. Locker sono praticamente dei locali, come fossero un cavò delle banche, diciamo così. Ci sono tante cassette di sicurezza anche, che si trovavano spesso all'ingresso di molte banche. Gli stipetti, una volta, no? delle palestre, ecco, diciamo così. Con al posto delle chiavi ci sono dei codici d'accesso. Il corriere ti dice, ti arriverà il pacco in questo punto, in questo locker, tu lo andrai a ritirare, dovrai digitare entro un certo lasso di tempo un determinato codice ed ecco che riceverai. Chiaramente questi spazi possono essere spazi anche non direttamente gestiti da un uomo, da una persona, non ha detto, quindi questo potrebbe creare una rete di locker sparsi, diciamo, sul territorio e aperti anche H24 rispetto al negozio, che chiaramente deve rispettare un certo tipo di orari. E poi c'è quest'altra, diciamo, alternativa che probabilmente è anche un po' figlia del fenomeno del car sharing, perché oggi, diciamo, le automobili si possono aprire in tanti modi diversi. Allora, poniamo che tu aspetti con una certa urgenza, che ne so, un pezzo per aggiustare il tuo computer, però quel giorno devi partire per motivi di lavoro, come fai? Sei in ansia, non riesci a disdire la consegna, o comunque hai la doppia necessità: da una parte devi andare in quel posto, nel senso andare a seguire quello che ti porta, dove ti porta al lavoro, dall'altra hai la necessità di ricevere quanto prima questo pacco. Allora cosa succede? Succede che l'azienda che recapita questi pacchi si organizza in questa maniera. Chiaramente tu devi deve avere anche un veicolo di un certo tipo. Beh, il tuo bagagliaio si apre attraverso un codice alfanumerico che è chiaramente nelle tue disponibilità, ma viene messo temporaneamente anche nelle disponibilità del corriere. Quindi tu hai posteggiato, che ne so, la macchina a Famagosta, magari geolocalizzata, diciamo, a questo punto l'auto, perché certamente altrimenti... a Famagosta, perché poi ti sei spostato eccetera, e ti viene consegnato il pacco direttamente nel bagagliaio, che, ripeto, poi chiaramente il codice alfanumerico cambierà, perché altrimenti poi la tua macchina diventerebbe vulnerabilissima. Questa è una soluzione chiaramente non semplicissima da applicare, ma andiamo incontro alla guida autonoma, quindi questa è una sciocchezza, diciamo che così. Le auto connesse diventeranno presto la normalità, quando saranno tutte connesse, lo saranno abbastanza a breve, sì, anche se succederà sui tempi forse. Talvolta ci sono delle aspettative. Certo, è vero. Però insomma è uno scenario che si sta avvicinando. C'è un altro scenario di cui spesso si parla, forse anche un po' a vanvera, devo dire, quello dei droni per la consegna dei pacchi. Ora si fa tutto con i droni, eh? Ormai certo. Qualsiasi attività viene appaltata al drone, quantomeno in termini così, perché si pensa che il futuro debba necessariamente passare da lì. Beh, in certi stati, in certi ambiti territoriali già avvengono le consegne. Pensiamo per esempio negli Stati Uniti. In Italia, francamente, la vedo un po' più difficile, soprattutto in determinate aree territoriali. Pensiamo a città come Genova, pensiamo a città, centri storici, dove francamente il drone credo che abbia qualche difficoltà a orientarsi in spazi ristretti, e questa è senz'altro, qualcosa succederà, dall'alto qualcosa piomberà, però pensarla come una soluzione praticabile nel medio periodo mi pare un filino azzardato. Ti faccio un'ultima domanda, dove in qualche modo possiamo forse anche richiamare in causa i droni, perché mi pare che uno degli scenari sia utilizzare questi droni per fare le consegne di pacchi in quei territori dove tu invece hai delle case sparpagliate, magari capita che il furgone arrivi, per capirsi, in città, poi ci sono due casette a 20 km in una frazione e lì si pensa di mandare il drone. Ecco, ma al di là di questo scenario magari un po' fantascientifico, si sta ragionando invece sull'altra metà dell'Italia, quella fatta di questi paesini sparpagliati in giro, anche lì c'è una riflessione anche lì sul tema della logistica? Perché... Senz'altro, è chiaro che il grosso si concentra in determinate aree, quindi prima si tratta, diciamo così, di risolvere il problema nei centri urbani, ma certamente c'è la necessità di risolvere anche questo problema, perché consegnare capillarmente su un territorio particolare qual è il nostro è estremamente impegnativo. Al momento devo dire però non è una priorità, perché, lo ripeto, c'è innanzitutto la questione delle città, dei centri urbani, sotto il profilo della sostenibilità, come si diceva all'inizio, poi dell'efficienza, e poi un altro dettaglio che vorrei aggiungere per dirti come è problematico questa questione. Nell'ambito tecnico, questa si chiama la logistica del capriccio, a proposito delle pretese spesso assurde che un po' pervadono l'animo di chi ordina sul web. E un'altra riflessione che si sta facendo alla luce del refrenabile sviluppo dell'e-commerce è il fatto di uscire dalle gabbie canoniche, quindi orari determinati e giorni. Quindi si pensa, e questa è una direzione nella quale stanno lavorando gli operatori, si pensa di estendere ai 7 giorni anche la possibilità di consegna, anche perché talvolta per molte famiglie è più facile essere reperiti il sabato o la domenica piuttosto che negli altri giorni della settimana. Grazie Andrea Ferro. Grazie a te. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.